Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo a Bari questa sera dove si è appena concluso Smau Bari, al cui interno si è parlato di Smart City. Bari ha deciso di impegnarsi su questo fronte, anche se per ora siamo solo agli inizi. Federico Pedrocchi è a Bari, ha partecipato alla manifestazione e ci ha portato un ospite che ci fa molto piacere avere qui con noi stasera. Federico, a te la parola. L'ospite è il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Intanto qui è venuto fuori che gli esperimenti più interessanti di Smart City sono quelli che hanno dei sindaci molto di polso e roboanti, su quello qua si sono sentiti tutti molto sicuri, data la sua personalità. Lei però ha toccato, sottolineato un punto molto interessante, e cioè le Smart City sono una grande innovazione, ma attenzione, lei ha detto, non c'è innovazione senza democrazia. Io sono convinto che la grande innovazione debba necessariamente essere popolare, cioè deve passare attraverso il coinvolgimento di grandi masse di persone. L'informatizzazione, per esempio, il web 2.0 si prestano a questo tipo di meccanismo, ma ci sono moltissime altre tecnologie che possono diventare popolari e crescere sia dal punto di vista dell'utilizzo, dell'incremento economico, quindi dei semplici numeri, ma anche far crescere le comunità che interpretano l'innovazione. L'innovazione, ho detto oggi, è un atto politico, non è un atto tecnocratico. Chiunque può immaginare un miglioramento tecnologico e, per esempio, non portare alcun contributo all'idea di città intelligente, perché l'innovazione può tranquillamente avere una direzione diversa da quella prevista da chi ha inventato il particolare marchingegno. Ecco perché noi pensiamo che debba essere connessa fortemente alla democrazia, al concetto costituzionale di sovranità popolare. Le istituzioni io le vedo, devo dire anche i partiti qualche volta, più come i luoghi della facilitazione, della costruzione dell'apprendimento collettivo, che come i luoghi della decisione. Si sta invertendo la piramide. La scelta democratica su dove applicare l'innovazione è determinante perché questa diventi anche un meccanismo di apprendimento collettivo, di miglioramento collettivo della risorsa umana, che è quella sulla quale noi dobbiamo puntare più di ogni altra. Senta, a proposito di coinvolgimento, c'è stato questo dato di Net Consulting che è venuto fuori lì proprio a Smau, di 4.000 microaziende informatiche lì a Bari. Come pensate di coinvolgere questo tipo di realtà e anche come pensate di concretamente di come dire, coinvolgere in questo processo di decisioni condivise, democratico, anche i cittadini di Bari? Avete in mente qualche progetto specifico? Noi stiamo studiando assieme ad alcune grandissime aziende del settore informatico dei meccanismi di coinvolgimento tecnologico dei cittadini nelle decisioni, quindi di partecipazione attiva. Però dirò di più, già Smau, questo anche ho detto oggi, è di per sé un grande forum dell'innovazione che si è aperto nella nostra città. Quelle 4.000 aziende non sono lì solo alla caccia di un fatturato, anche se ovviamente consiglio loro vivamente di occuparsi sempre del loro fatturato, sì. ma sono soprattutto un grande patrimonio a disposizione della Puglia e del Sud, che qui a Bari sta trovando una totale valorizzazione e fa parte della idea di sviluppo che abbiamo. Imprenditori di questo tipo, con questa vocazione, con queste visioni, si stanno affermando e noi dobbiamo cercare di aprire loro la strada. Ieri il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Wolf, era qui a Bari non perché fosse una bella giornata di sole, ma perché Bari è il luogo dove attraverso il Politecnico di Bari, la Facoltà di Informatica, il Distretto della Meccatronica e dell'Automotive, questa innovazione è diventata parte delle nostre giornate quotidiane. Signor Sindaco, un'altra cosa che è venuta fuori in questo dibattito è appunto che le tecnologie le abbiamo, le procedure avanzate ci sono, dobbiamo assolutamente far sì che ci sia un cambio culturale nei cittadini, non soltanto una loro partecipazione. Smart City è anche proprio un progetto di ridisegno di quella che è la modalità che noi tutti abbiamo di rapportarci gli uni agli altri e con la vita della città. Io faccio un esempio, come è noto io adopero molto sia Facebook che Twitter, ma ancora molti, soprattutto i politici tradizionali, pensano che io giochi su Facebook o su Twitter. In realtà noi governiamo la città. in tempo reale io riesco a sapere, prima di qualunque dirigente o di qualunque ufficiale della Polizia Municipale, se c'è stato un incidente, se c'è un impianto di illuminazione che non funziona, se ci sono delle buche, se c'è un incidente al pronto soccorso e un medico si è comportato in maniera scortese, e tutto questo portando in tasca uno smartphone. Mia madre, che ha 78 anni, segue il figlio esattamente sullo stesso Facebook, sullo stesso Twitter, e comincia a sveltire le sue sinapsi, che pure sono formidabili nonostante l'età, attraverso l'utilizzo di queste tecnologie. Tutto, insomma, questo a costo zero, cioè io non spendo una lira in più di quello che spenderei ad avere il telefonino in tasca. Senta, dunque, la Commissione Europea ha appena comunicato i vincitori dei primi tre bandi che sono stati dedicati appunto alle Smart City. C'è stato un grande successo della città di Genova, che ci stava lavorando da tempo. Torino, per esempio, invece è rimasta a bocca asciutta. Tra non molto uscirà il nuovo bando dedicato alla mobilità. Voi con che tempi pensate di muovervi? Le chiedo se avete in mente delle scadenze precise, puntate a qualche bando europeo? Beh, naturalmente noi stiamo rispondendo a tutte le call che man mano si susseguono. Quello che ci interessa maggiormente però è quello di dotare la città di una infrastrutturazione dal punto di vista informatico e della mobilità che consenta di cogliere i nostri obiettivi. Il nostro obiettivo non è, per esempio, quello di trasformare la mobilità privata da combustibile fossile a combustibile elettrico, come qualcuno potrebbe immaginare. Noi vorremmo evitare la mobilità inutile, vorremmo evitare la mobilità che può essere resa superflua da una connessione a banda larga. Grazie, grazie Sindaco Emiliano. Grazie, arrivederci, sindaco. A tutti. Buon lavoro. È tutto, a lunedì.